Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Di iniziare col nostro sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologie, libri, questa settimana anche musei, anche concerti, tante tante cose, insomma il nostro tutorial per un bel weekend. E nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta la qualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi per favore tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti velocissimi, rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chiusa Twitter il sabato del villaggio, è un po' lungo, usiamo sempre le iniziali, cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Beh, ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini. Torniamo a parlare di smartwatch. Vale la pena comprarli? A cosa servono davvero? Lo scopriremo con Enrico. Poi tanto, tanto cinema con tutte le novità del weekend. Ma subito parliamo di musica con un fenomeno rinato negli ultimi tempi. Stanno arrivando. I was your boy, and we would dance an endless dance. The lights were spinning all around, but how we love this new romance. Forever young and we were cool, and I'm so alive and all around the world. I was a showboy through the western world. La voce di Tony Hadley è assolutamente inconfondibile. Stanno tornando gli Spandau Ballet. Sono venuti in Italia due volte negli ultimi mesi e li abbiamo seguiti perché hanno veramente fatto sensazione. Quando sono arrivati a Roma per presentare il documentario sulla loro storia, quando poi sono tornati a Sanremo, anche lì un successo chissà, forse inaspettato, perché non pensavamo che fossero ancora così amati, forse lo sono ancora più di prima. Adesso siamo pronti perché è la settimana del loro grande ritorno dal vivo, date praticamente tutte esaurite. 24 a Milano, 26 a Torino, 27 a Padova, 28 a Firenze, il 30 a Roma. Chi ci sarà a vedere praticamente tutte le date? Un'amica del sabato del villaggio che è la nostra esperta preferita di questi temi, autore televisivo, critico musicale e soprattutto la fan numero uno al mondo degli Spandau Ballet. Buongiorno a Chiara Di Giambattista, ciao Chiara. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti gli ascoltatori del tuo programma fantastico. Proprio sei spoiler, però tu non puoi dire che io andrò. Diciamo che sarò qua e là, mettiamola così. Non ce lo sveli a quale, quante date? Tutte, secondo me vai a tutte. Io non te lo posso dire perché altrimenti poi ne va della mia credibilità professionale. Okay. Però poi diciamo che poi quando si tratta di queste cose diventa un momento di grande divertimento e devo dire che loro fanno uno show pazzesco. Io sono stata a Liverpool due settimane fa a vederli. Avete capito, lei è andata a Liverpool a vederli. Noi sappiamo già come sarà il concerto, come hanno costruito il live, perché Chiara è già andata, grandissima. Ma sì, perché ero proprio curiosa di vedere, perché sapevo, avevo letto, insomma, anche un po' dalle loro dichiarazioni, che volevano puntare molto su una scaletta incentrata sul loro periodo della loro grande nascita, che è quella del club che si chiamava Blitz, che è quello da dove loro sono nati, e se avete seguito attentamente la loro ospitata a Sanremo, alla fine della loro performance hanno fatto una dedica a Steve Strange che era scomparso proprio in quelle ore. Esattamente, da poche ore. Loro, devo dirti che erano sconvolti, sono stati dei grandissimi professionisti a presentarsi sul palco con dei sorrisi meravigliosi, ma hanno giustamente dedicato la loro performance all'uomo che forse è una delle persone che ha fatto di più per dargli modo di emergere. E la loro scaletta, ti posso già fare un'anticipazione, che avrà un momento dedicato proprio ai primissimi anni Ottanta. Grande Sound sono tornati con la formazione iniziale che prevede anche Toby Chapman alle tastiere, quindi sono loro cinque e Toby Chapman, la formazione quella degli anni d'oro, senza orpelli, senza nulla, grandissimi musicisti, una scaletta tiratissima, pazzesca, e loro veramente non respirano un attimo, ma non danno modo neanche al pubblico di respirare, perché c'è modo di cantarne una dopo l'altra. Beh, straordinario. Io a Milano ci sono. Chiara, ma secondo te perché sono tornati facendo di nuovo? Io veramente sia a Roma che a Sanremo ho visto i fan veri che non vedo ormai solo per le band da ragazzi, come è giusto che sia. Io non mi aspettavo un fenomeno così intenso. Perché secondo te? Guarda, io ti dico che sto osservando anche dal mio punto di vista, insomma, molte donne ormai, ma anche molti uomini. La cosa bella è che loro anche hanno anche moltissimi fan uomini, quindi non è soltanto un fenomeno femminile perché sono stati belli e quindi, ma perché effettivamente la loro musica di qualità è una cosa che poi rimane negli anni, perché delle hit come Gold, Through the Barricades, tutte quelle che effettivamente hanno fatto poi un po' la loro storia, sono rimaste come dei capisaldi della musica, non solo New Romantic, non solo anni 80, ma della musica in generale, perché effettivamente sono dei grandi pezzi, ben strutturati, ben scritti, ben suonati, e loro tuttora, Tony Hadley, come hai sottolineato tu all'inizio, la sua voce inconfondibile è assolutamente intatta, anzi devo dirti quasi meglio del passato. Ma questo è amore però, Chiara, adesso... Ma guarda, devo dirti che in realtà si può confondere l'amore con il giudizio, però effettivamente loro sono veramente in grande spolvero. C'era il possibile dubbio, no? Ragionevole dubbio che si potesse trattare di un'operazione studiata a tavolino, e invece loro si divertono moltissimo sul palco. Non è una cosa che devono fare, ma sembrano tornati i ragazzi di 20 anni degli anni 80, quando avevano proprio il gusto e il piacere loro stessi. Io ho avuto modo di parlare con loro nella Dora di Liverpool ed erano veramente molto felici di esserci, si stanno veramente divertendo tanto, hanno appena finito la parte inglese, la parte del Regno Unito, del tour, adesso si stanno spostando, si stanno lentamente avvicinando all'Italia e martedì inizieranno questo tour, e non vedono l'ora di arrivare in Italia, perché hanno detto il pubblico italiano è sempre stato il migliore di tutti. Insomma, Lifeline era la mia preferita, lo confesso, una delle mie preferite, Chiara. Io ho ieri intercettato per telefono il grandissimo David Zard. Noi ne abbiamo parlato già, lui personaggio straordinario, noi siamo cioè per noi il nome già di David Zard ci riporta ai primi concerti di quando eravamo piccolini, o magari sognavamo anche solo di andarci ai concerti, perché lui era il nome leggendario che c'era in tutte queste locandine dei grandi artisti, perché è stato il primo promoter a portare i grandi artisti in Italia negli anni 80. Ed è lui che adesso lavora anche col figlio Clemente, che è molto bravo, che ha anche un occhio allenato ai fenomeni così più giovani, ma non solo. È stato lui a voler riportare gli Spandau in Italia. Allora gli ho chiesto come mai, gli ho chiesto di cercare, insomma, di aiutarmi a capire perché questa sensazione, questo fenomeno. Sentiamo cosa mi ha risposto appunto ieri, raggiunto telefonicamente, David Zard. Che fossero attesi noi lo sappiamo, perché riceviamo sempre telefonate, quando vengono quelli, quando vengono quell'altro, come se noi fossimo gli unici che portano i concerti, ma loro sono, poi sinceramente hanno fatto un'esibizione esemplare a Sanremo e il pubblico ha riscoperto il trionfo della melodia anche britannica, inglese, che è molto vicino come gusto alla nostra musica. Se lei dovesse riportare in Italia dei grandi del passato, appunto gli Spandau Ballet stanno facendo questa sensazione incredibile, chi vi vorrebbe sul palco? Emerson, Lake and Palmer, riporterei Pink Floyd, gli Eterni, che sono eterni, poi porterei Elton John, porterei Duran Duran, perché i Duran Duran fanno parte del fenomeno di quell'epoca, e oggi ci sono anche molte persone che arrivano, che a quei tempi avevano 18 anni, oggi ce ne hanno 45, che si rituffano a vedere il concerto dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, perché è bello rivivere la propria gioventù, stare in mezzo a un palazzo dello sport pieno e potersi sbraitare e urlare senza prendersi in giro, perché se io oggi andassi a vedere un artista di oggi e mi venisse voglia di fare il giovane, mi piglierebbero in giro, ma quando vado a vedere gli artisti che ho portato a suo tempo, se faccio gli stessi movimenti dicono: beh, si sta divertendo perché era così. Questa vecchia, chissà se era vera questa rivalità. Sì, era abbastanza vera, diciamo che un po' se le sono date. Chiara, beh, insomma, David Zarr l'ha detta giusta, anche perché io ho l'impressione che soprattutto i 40, 35, 40, 45, 50 anni adesso affollino i concerti, cioè assolutamente. E quindi questi che poi sono rimasti sono quelli che in realtà si è scoperto anni dopo, che erano quelli che sapevano suonare davvero, cioè il tempo. Ma gli stessi Duran Duran, adesso la polemica, come dire, la rivalità c'era perché c'è sempre un protagonista e un antagonista, come Beatles e Rolling Stones, sempre ci sono stati. Però in realtà ti posso dire che la prefazione del tour book degli Spandau Ballet di questo tour l'ha scritta John Taylor, quindi in realtà loro sono grandissimi amici, hanno sempre combattuto fianco a fianco, e sono forse più le fan che in passato si sono divise in fazioni, ma era un gioco, è sempre stato un gioco, ed effettivamente oggi non avrebbe quasi più senso. E anche i Duran Duran sono dei grandissimi artisti che, anzi, speriamo di vedere presto. Sì, così andiamo a vedere anche tutti i concerti di Duran Duran e facciamo un confronto all'americana, anche perché poi la verità è che noi eravamo piccole, cioè non è che eravamo già grandi quando c'erano i Duran Duran e gli Spandau Ballet, è che eravamo abbastanza piccine. Mi quindi... portò papà a vedere gli Spandau Ballet quando ero piccola. Esatto, cioè non è che è un ricordo di gioventù, no, è proprio una passione che adesso è rinata per molti. Chiara, io ti chiedo solo un attimo di pazienza, anche perché mi piacerebbe, visto che tu sei, appunto, ti occupi tanto di musica come critico musicale, anche come autore televisivo, ma anche come appassionata, e anzi consiglio ai nostri ascoltatori di seguire il tuo account di Twitter, perché ci regali sempre un sacco di chicche. The Real Chiara DG, DG come di Giambattista. Ti chiedo solo un attimo di pazienza, perché vorrei chiederti qualche consiglio per qualche concerto da seguire, chi sta per arrivare in tour o chi c'è da non perdere. Ti chiedo solo un attimo di pazienza, perché adesso andiamo ad aggiornarci su quello che sta succedendo su strade e autostrade. Il sabato pomeriggio è fondamentale e tra pochissimo ci ritroviamo. Il sabato del villaggio. Yeah. dreaming of the night. Beh, siamo sempre in ambito 80s, siamo ancora con gli Spandau Ballet che torneranno questa settimana in Italia. Io l'ho detto, 24 Milano, 26 Torino, 27 Padova, 28 Firenze, 30 Roma, quasi dappertutto sold out. Però David Zard, che abbiamo ascoltato prima, ieri mi ha detto: guarda che forse riapriamo le vendite, perché qualcosa forse rimane ancora nei prossimi giorni, quindi stiamo attenti. Chi non fosse ancora riuscito ad avere il biglietto, adesso non parliamo di un sold out, che è sempre frustrante quando si parla in radio o in televisione di sold out, che uno ascolta e dice: vabbè, ma mi parlate di un evento al quale non potrò assistere. A me dispiace sempre, Chiara, ecco la nostra Chiara, no, di Giambattista. È perché, cercate, scusa, qualche ultimo biglietto c'è ancora disponibile, io vi consiglio di non perderli effettivamente. Allora, sai che c'è un ascoltatore, Andrea da Bologna, che ci scrive al 349-238-6666: come siamo nostalgici e melodici. Beh, ogni tanto sì, dai Andrea. Rimanendo nel periodo, ci mettiamo anche Sade. Lei sarebbe bella da rivedere, a me mi piacerebbe un sacco. Fantastica, grande voce, grande presenza, molto raffinata, voce pazzesca effettivamente. Però posso dire una cosa che non è nostalgia. Io credo che anzi l'operazione che loro hanno fatto anche con il film Soul Boys of the Western World non sia una operazione nostalgia, ma un'operazione di recuperare la loro storia e di raccontarla, perché la loro è veramente una bella storia. Senza un guardare al passato con un po' di malinconia, anzi, guardando al passato ma voltandosi verso il futuro e sapendo che hanno ancora forse molto da dare alla musica. Questo credo che sia la cosa fondamentale. La cosa poi che mi è piaciuta di quella ricostruzione, di quella storia, la loro storia, ma non solo, è stata proprio il fatto che riguardando quel documentario, che era davvero ben fatto, si capiva molta della nascita della musica di oggi. Si vedevano le radici di quello che poi sarebbe successo nella musica, nel costume, nelle abitudini, nella moda. La cosa bella è il racconto che loro hanno fatto anche sociale. Ovviamente molto incentrato sull'Inghilterra, naturalmente, perché era il posto dove loro sono nati, però c'era anche è un film che parla di costume, di moda, di cambiamenti sociali, e secondo me che hanno poi determinato e che andavano di pari passo con un cambiamento molto importante che è avvenuto nella musica. Chiara, però appunto, primavera sta arrivando, è arrivata. Fantastica, anche se oggi proprio non è proprio bellissimo il tempo a Milano, a Roma non so, a Milano è così a così. Roma un po' di sole, c'è un timido sole, ma ce la possiamo fare. Ecco, dai, arriva la stagione dei concerti, qualcuno ancora è chiuso, arriveranno anche gli stadi, mi affido ai tuoi consigli. Chiara, cosa ci consigli di andare a sentire? Guarda, io vi dico, prima dell'estate secondo me ci sono un paio di cose che non vanno perse. Sting e Paul Simon a Milano lunedì 30, secondo me è un evento imperdibile. Fabi Silvestri Gazzè iniziano ad aprire l'Arena di Verona il 22 maggio, poi a giugno ci sono Bob Dylan, Pet Shop Boys, a proposito di grandi gruppi degli anni 80, Sam Smith, Mumford & Sons, a luglio Damien Rice, Stromae, fantastico, il fenomeno Ozier, Tony Bennett con Lady Gaga, Robbie Williams e Bjork, poi a settembre i grandi U2 con David Gilmour, a ottobre Dave Matthews, a novembre torna Madonna, ma devo dire anche lei... comunque è sempre una grande regina, per quanto se ne possa pensare, è sempre una grande regina. La nostra Valeria Bernardi in regia si sta divertendo però con gli Spandau Ballet, io vedo che si sta divertendo, me lo dice nell'interfono. Sai cosa faccio, Chiara? Retwitto quella foto bellissima che hai twittato qualche giorno fa di te con Martin Kemp, molto soddisfatto, c'ha la faccia soddisfatta anche lui, diamogli torto che è abbracciato con Chiara. Ti chiedo l'ultima cosa perché sono molto curiosa, hai detto che hai parlato con loro a Liverpool, perché cosa ti hanno detto? Erano contenti? Oltre al fatto che sono contenti di arrivare in Italia? Sì, erano molto felici anche di questo tour, nel senso che erano molto emozionati, quasi come se fosse... Mi hanno detto una cosa, che quando si sono ritrovati per le prove di questo tour si sono un po' guardati negli occhi, perché finalmente erano la formazione originale, anche con il tastierista, come ti dicevo prima, ed erano veramente contenti. Gary Kemp mi diceva, Toby Chapman, che gli ha detto... finalmente ora questo è il vero sound degli Spandau ed è quello che sentiremo dal vivo, perché veramente meritano l'ascolto e fanno un grandissimo spettacolo. Beh, straordinario, poi Gary Kemp è la mia passione, adesso faccio un momento coming out, il mio preferito è sempre Gary. Chiara, allora, io e te ci vediamo al concerto milanese degli Spandau. Sono molto contenta di parlare con te perché ci dai, insomma, al di là del fatto che ci divertiamo per questa tua passione da fan, sei sempre competentissima, i tuoi consigli sono sempre molto molto preziosi. Grazie a Chiara Di Giambattista. Io ricordo il tuo account di Twitter, che a parte il fatto che appunto ho twittato l'ultima tua foto, quindi lo trovate anche sul mio, The Real Chiara DG, con le iniziali di Giambattista. Chiara, grazie per essere stata grazie con noi, mille. Un abbraccio, grazie un abbraccio forte. Fantastici. Grazie Marta. Grazie Chiara, noi adesso abbandoniamo la musica per un attimo, perché poi nella seconda ora avremo un artista in studio e non vi sto neanche a dire che grande artista, comunque abbandoniamo la musica per un attimo perché adesso parliamo di cinema. Ecco colui che mi farà da guida. Chi è? Sono Dante Alighieri. Ma vaffanculo, basta con questi scherzi di merda. Guarda, sto uscendo, se sei ancora lì ti ammazzo. Maduca, ovate, guida, lume, Virgilio. Fammi capire. Cioè, tu questa mattina ti sei alzato, ti sei vestito da Dante Alighieri e sei venuto qui per farmi questo scherzo. Virgilio, duca mio, stringimi al petto. Sarai mio lume in questa terra ostile. Ma io non ce l'ho con te, io non ce l'ho con te. È colpa mia, colpa mia. Per forza, per forza. Vedo tutto un casino, sono rimasto fuori casa, la bolletta, per forza. Gino, duca mio, contavo male le sillabe, no? È 11, ma... Lasciatemi, vi prego, lamentare di questa vita infame e ingenerosa. È un cumulo continuo di fatiche, di stress e patimenti senza posa. Beh, cominciamo a parlare dei film in sala questo fine settimana. L'abbiamo detto, almeno a Milano il tempo è così così. Chiara Di Giambattista ci diceva che a Roma c'è un accenno di sole, però ci sta ancora un sabato o una domenica al cinema. Tra poco sentiremo altri consigli ancora da Franco D'Assisti, che poi ritroveremo anche alle 18, ma intanto questi sono, li avete riconosciuti anche dalla canzone di Sanremo, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, che tutti conoscono come i soliti idioti, che questa volta nella solita commedia Inferno vanno alla ricerca dei nuovi peccati degli italiani. Noi avevamo raccontato i tic, le nevrosi, tutte queste cose qua. A un certo punto abbiamo deciso, ma se andassimo oltre... No, mentre era in bagno, Francesco è tornato dal bagno. Questa è ormai storia. Storia. Ho detto, ma perché non facciamo una roba con i sette vizi capitali? Ma allora aspetta, se facciamo i sette vizi capitali, facciamolo raccontare a Dante Alighieri, chi meglio di lui, voglio dire. E perciò abbiamo detto, da quel momento in poi abbiamo cominciato veramente a divertirci, a pensare a quali sono i peccati dell'italiano, e ce ne sono tanti. Quello che è sempre difficile è trovare dei peccati che raccontino qualcosa, cioè che raccontino l'Italia. Non ci sono, cerchiamo di non mettere mai delle cose fini a se stesse, cerchiamo sempre quell'effetto nello spettatore che è, madonna è vero, esistono quelli così, ah madonna io sono così, il mio vicino di casa è così, questa è un po' la vita reale, raccontare quello che è la gente comune. C'è tanta rabbia, tanta impazienza, tanta... Quali sono secondo voi, perché poi alla fine secondo me ci sono dei filoni in questi, in questi difetti degli italiani? Guarda, noi la somma che abbiamo tirato, diciamo sempre, è che c'è un clima di bruttezza. Cioè c'è un clima di bruttezza che dilaga, che avanza, come ti ricordi la storia infinita? Che nero, c'era nulla che avanzava che si mangiava tutto. Ci dà quelli... Noi quella la roba che ci ha messo ansia, angoscia, è proprio questo nulla, questa bruttezza che avanza, come se ci fosse qualcuno proprio che scientificamente decide di imbruttire il mondo, no? E da lì tutto di conseguenza, capito? Quando nel brutto diventi brutto. Quella sera avevo veramente toccato il fondo, ma grazie ai miei amici sono riuscito a entrare in questa clinica e a disintossicarmi. Mi chiamo Pietro, ho 32 anni e da un mese non uso MessUp. Grande applauso. Bene ragazzi, c'è qualcun altro che vuole condividere con noi la propria esperienza, la propria storia, eh? Simone, coraggio, dai. Ciao, mi chiamo Simone e sono 47 giorni che non mi faccio il selfie. visto che avete citato Frank Matano e Maccio Capatonda, perché sì, tutti sono curiosi di sapere cosa fa ridere a voi, a perché visto che studiate. No, cosa... ma noi, guarda, Maccio e Frank Matano sono bravissimi, però non mi fanno ridere, nel senso non, però sono bravi, me ne rendo scherzo. No, la comicità è soggettiva comunque, no? Perciò una cosa può far ridere o no, però si riconosce il talento, eccetera. A noi cosa ci fa ridere? Boh, noi ci fanno ridere molto le cose del passato, poi sai, noi ce lo chiedono spesso, perciò noi citiamo sempre Tognazzi e Vianello. A me per esempio Totò è uno di quelli che mi guardo sempre, quando appena vedo il film in televisione me lo guardo, perché io mi fa proprio ridere alle lacrime. Ultimamente la cosa che mi ha fatto più ridere è stato questo Storie pazzesche, questo film spagnolo mi sembra, insomma, prodotto da Almodóvar, che è veramente molto divertente, molto anche nel nostro spirito. Maccio ci fa ridere. Maccio ci fa ridere, il terzo segreto di Satira ci fa molto ridere, ci fa ridere con la testa, con l'intelligenza, infatti abbiamo preso tre attori appunto di questo collettivo. Devo dire che io rispetto tutti quelli che fanno il lavoro del comico, perché è la cosa più difficile, perché poi sono tutti pronti a dire ah ma non fa ridere, cioè non c'è mai quello ah sono andato a vedere il film drammatico non ho pianto, cioè non si dice mai quella cosa lì, no? Non fa piangere, non fa piangere. Ragazzi, ma sto film non fa piangere, però sono andato a vedere Castellitto non fa piangere, capito? E invece il comico è sempre, soprattutto in questo momento, ah ma quello non fa ridere, quello non è capace, quello... Ragazzi, noi ci proviamo con grande umiltà, siamo una generazione nuova che cerca di far ridere in un periodo dove ridere è veramente difficile, quindi grande stima e rispetto per i colleghi. È vero che c'è sempre chi sta peggio, chi affoga proprio mentre io galleggio, ma non è poi così rassicurante se qui chi affoga era il tuo galleggiante. E così abbiamo avuto anche i consigli per le risate di Biggio e Mandelli, che questo fine settimana, da questo fine settimana, sono al cinema con La solita commedia. Ma abbiamo consigliato dei concerti insieme a Chiara e Giambattista, parlando poco fa con la nostra amica Chiara. Stanno arrivando anche i vostri consigli via SMS al 349-238-6666, ma anche su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Su Twitter Tonino A62 scrive: un consiglio sui concerti Mark Knopfler, lo adoro. Io ho il biglietto per Padova 18 luglio, consigliatissimo, è appena uscito l'ultimo CD, vero verissimo. E poi Andrea che ci diceva che eravamo nostalgiche, dice no, ma nostalgia con taglio positivo e non malinconico, lo dimostro ricordando che a luglio a Imola ci saranno gli AC/DC, che mi permetto di aggiungerlo, vanno sempre fortissimo. Tra poco cercheremo le solite grandi imprese di Enrico Pagliarini, chissà quale sarà il suo esperimento questa volta, non ho idea, vabbè, lo scopriremo tra poco. Una piccola pausa, poi saremo ancora insieme con Il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Mi piace perché abbiamo parlato di concerti, tra le altre cose, nella prima parte del nostro sabato del villaggio, con i nostri consigli, ma stanno arrivando anche i vostri. Stefano Frattini, giustamente, @ Frattini Family, mi ricorda che Enrico Ruggeri, il nostro collega, mi piace chiamarlo così, ogni volta lo saluto dicendo ciao collega, con il Falco e il Gabbiano su Radio 24, ma sarà in Pezzi di Vita Tour da aprile col nuovo CD. Stefano ha detto che ha comprato il biglietto del 27 aprile al Nazionale, sono molto molto contenta. Le vostre idee mi fanno molto piacere, i vostri consigli mi fanno molto piacere. Adesso è il momento delle tecnologie, e per introdurre il nostro Enrico Pagliarini, che chissà dov'è, tra poco ce lo facciamo spiegare, beh, come sempre ho scelto per lui una musica a tema. Hey. Yeah, everybody got a bedside trap. Let me see that shit. What you say, cold ain't hot, what? Where you read that shit? You believe that shit? All cause some lame nigga tweet that shit. How you see my shows? How you see my hoes? If I wasn't hot, would they be so thick? Beh, queste sono, le parole sono un po' fortine, eh? J. Cole, Mr. Nice Watch, il tizio che c'ha un bello orologio. Ehi, signor bello orologio, chissà se ha un bello orologio Enrico Pagliarini. Chissà dov'è Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ah, ma allora ci sei, io non lo so del mondo tu sia, perché mi sembra di averti qua vicino, ma non ci sei. Eh no, sono vicino ad un'antenna 4G. Ah, dai, oggi andiamo col 4G. Esatto, sveliamo, sì, il segreto. Cioè tu sei collegato con un normale smartphone, con un microfono, con un'app microfono particolare. collegata con la radio e viaggi sul 4G, diciamo così. Esattamente. Ma cosa hai al polso? Hai per caso uno smartwatch? Ne avevo tanti e me li sono tolti tutti, perché se noi guardiamo, al mercato oggi, possiamo contare più di 50, ma visto che poi in alcune parti del mondo fatichiamo a prendere nota, tipicamente in Cina, probabilmente arriveremo a 100 tipi di smartwatch che sono già sul mercato disponibili. Ormai si impazzisce di fronte agli smartphone. Di sicuro possiamo dire una cosa, che l'orologio al quale noi siamo abituati sta cambiando. Poi vedremo come cambierà. Non è detto che il cambiamento che stiamo vivendo oggi, che stiamo vedendo oggi con i primi smartwatch, sarà quello definitivo dei prossimi anni, però di sicuro qualcosa sta cambiando, tanto che mi è un po' sorpreso che questa settimana a Basilea in Svizzera, quindi in casa dei produttori di orologi svizzeri, ci siano stati alcuni produttori, non tantissimi, ma alcuni produttori di orologi svizzeri che abbiano detto: anche noi faremo lo smartwatch, quindi l'orologio intelligente, diverso dall'orologio tradizionale. Cioè delle marche dei marchi di orologi tradizionali che si mettono a fare anche lo smartwatch. Esattamente, cercano di cambiare strada. Allora, forse il nome più importante, che non è un solo produttore di orologi, ma fa anche orologi, è Gucci, che ha presentato, o meglio, ha annunciato l'arrivo di un orologio fatto, tra l'altro, adesso non so se sono amici con quello che cantava prima, da Will.i.am, perché devi sapere che Will.i.am, che è un cantante, un produttore abbastanza famoso, abbastanza noto, cioè abbastanza, toglierei l'abbastanza, giusto? Che è famosone, sì, famosone. Allora, lui si è messo a produrre smartwatch, ne ha fatto uno, ne ha presentato uno che adesso non si può ancora acquistare, si può fare solo su invito, però diciamo che anche lui si è buttato. È un orologio che vive da solo, perché ha addirittura la connettività internet, quindi non vive assieme allo smartphone, e produrrà lui l'orologio per Gucci, quindi questa è sicuramente una novità. Allora, a proposito di smartwatch, quindi di orologi intelligenti, sicuramente l'estetica gioca un ruolo molto importante, e vedremo, già oggi vediamo tantissimi tipi, tantissima fantasia, creatività. Direi che oggi ci sono due strade sostanzialmente: gli orologi che assomigliano agli orologi tradizionali, quindi gli smartwatch che assomigliano agli orologi tradizionali, dove le lancette però ci sono ma non sono vere, sono una immagine riprodotta dallo schermo, perché stiamo parlando di oggetti che hanno un display, così come ce lo hanno gli smartphone. Per fare un esempio, abbiamo visto tutti quello della Apple, che in una delle immagini, esatto, pubblicitarie ha il vecchio, quello che avevamo tutti da bambini, l'orologino di Topolino con con le braccine di Topolino, lancette, loro l'hanno fatto animato e finto sul display. Esatto, ultimamente ci sono anche dei produttori che hanno scelto di fare il display tondo, proprio per cercare di riprodurre il più possibile la forma dell'orologio tradizionale. E poi ci sono invece degli orologi che prendono un'altra strada, cioè dal punto di vista estetico sono più simili a uno smartphone, perché hanno una forma o rettangolare o quadrata. Comunque stiamo parlando di cose che hanno dimensioni attorno ai 3,5-4 centimetri. Il che vuol dire che non sono piccolissimi, sono tendenzialmente un po' più grossi rispetto alla media degli orologi da polso tradizionali. Quindi questo è un primo elemento, vedremo poi se piacerà questo ai consumatori. Tenete conto che stiamo parlando di un mercato che di fatto non esiste, anche se ci sono tantissimi produttori. L'anno scorso ci sono state stime di mercato che ci dicono che sostanzialmente nel mondo si sono venduti una roba tra i 15 e i 20 milioni di wearable devices in generale, includendo anche i semplicissimi braccialetti fitness. Quindi il mercato stanno tentando di farlo partire, poi vedremo se ci sarà una risposta dei consumatori. Altra differenza, allora, orologi che vivono necessariamente in simbiosi col telefono, tipo Apple Watch, come tu hai fatto riferimento prima a Apple Watch, sì, perché ne stiamo parlando tutti, di cui si parla sì tantissimo, e poi ci sono invece, e forse sono un po' più interessanti, gli orologi che possono anche vivere da soli, perché hanno una SIM, così come c'è nel telefonino la SIM, ce l'hanno addirittura integrata all'interno, quindi ce la teniamo al polso e quindi possono vivere da soli anche senza collegarsi al telefonino, allo smartphone. Naturalmente costano un po' di più. A proposito, ma cosa ci dobbiamo fare con questo che si collega da solo? Sì. Cioè, nel senso, io mi chiedo, vabbè, adesso ci saranno tutti quelli che faranno lo sborone con lo smartwatch, ma a cosa... magari non sanno neanche usarlo. Ecco. Sì, no, ma a cosa può servire un aggeggio del genere? Soprattutto, vabbè, l'abbiamo capito, però con la SIM dentro perché... Allora, tieni conto che moltissimi smartwatch devono vivere necessariamente con lo smartphone, anche perché una delle prime funzionalità è tenere il telefono in tasca e usare l'orologio per tutte le notifiche. Quindi mi arriva un messaggio, basta che giri il polso e lo vedo sullo smartphone, sullo smartwatch. Posso addirittura rispondere al telefono, quindi parlare e rispondere ad una chiamata. Se io ho un prodotto che vive da solo, potrei addirittura girare solo con quello, sostituire proprio il telefono in toto. Mi sembrano, quindi... sai quei vecchi film in cui si immaginava la tecnologia, no? Facevano uscire l'antenna nonne dal telefono, dall'orologio. Devo dire che alcuni sono anche molto belli, molto eleganti, quindi sicuramente potrebbero essere una idea. Però in questo momento c'è proprio un cambiamento tecnologico e quindi anche l'abitudine dei consumatori, almeno quelli che hanno ancora al polso un orologio, perché sappiamo che con i telefonini molti l'orologio se lo sono tolti dal polso. Io ce l'ho e a volte non è neanche dell'ora giusta, perché ce l'ho solo proprio come peso al polso destro, perché sono mancina. Ce l'ho ma non lo uso per guardare l'ora, ecco. Potresti tentare la strada dello smartwatch. Esatto. Ma io sono sempre per un Cartier, un Gégé, non lo so, sono un po' più tradizionale, allora un po' più lussuosa io. Allora devi aspettare che Cartier bla bla bla facciano lo smart Cartier. Sì. Comunque, tra le cose che si possono fare, perché naturalmente uno si chiede ma che cosa me ne faccio di questa cosa, allora fare molte delle cose che io faccio con il telefonino, tenendo il telefonino in tasca. Poi un altro grande trend è quello dei sensori biometrici in grado di registrare quello che noi facciamo, quanto corriamo, quanto saliamo le scale, il battito cardiaco, e poi durante la giornata o alla fine della giornata questi dati poi li possiamo vedere, trasferire sullo smartphone. Quindi questo è sicuramente un altro utilizzo. Te ne cito altri due, poi diamo la linea alla viabilità. Allora, il primo può essere, e questa è un'idea forte che porta avanti Apple, usare questo per i pagamenti. All'interno c'è un chip NFC, comunque al di là dei tecnicismi, uno avvicina ai POS evoluti, moderni, questo orologio, e può effettuare un pagamento, e questo è sicuramente molto interessante. Sempre questo chip può scatenare delle cose tipo aprire una portiera. LG ha annunciato una collaborazione con una casa automobilistica tedesca per aprire le automobili, quindi uno arriva, avvicina il polso, fa una figurona quando esce con le femmine, e fai proprio una figura subito da figo, perché tac, col telefono, con l'orologino apri. Senti, sì, Enrico, se non si apre fai una brutta figura. Esatto. Enrico, facciamo un po' di così finale in sospeso, diamo prima la linea alla viabilità, poi mi dici l'ultimo uso, va bene? Dai, sì, sentiamo. Eppure anche quanto costano. Aggiorniamoci su quello che sta succedendo su strada e autostrada intanto. Il sabato del villaggio. Allora faccio la domanda secca a Enrico Pagliarini. In un minuto riesci a dirci quanto costano questi smartwatch? Quanto dobbiamo spendere per fare i fighi e aprire la portiera con l'orologino? Partiamo dall'alto, stiamo parlando di cose che costano vicine ai 400 euro per cose tipo l'Apple Watch, che per il momento non è annunciato per l'Italia ma arriverà fra qualche mese, o comunque arriverà dal 24 del prossimo mese in Francia, in Germania, i paesi più vicini. Samsung Gear S è uno dei telefoni ed è uno degli smartphone, tra smartphone e smartwatch sì. Si confonde, è uno degli orologi che vive da solo perché ha una SIM integrata, anche questo costa sui 400 euro, però mediamente per prenderci uno smartwatch dobbiamo spendere tra i 200 e i 300 euro, c'è anche qualcosa a 100, ma insomma c'è anche quello da 10.000 dollari d'oro, ma quello ah vabbè, sì sì forse c'è anche quello sì, sì. Questo Enrico, l'ho tenuto per una delle prossime puntate da portarci così con quello fai una bella figura, guarda, te lo dico sicuramente, sì sì sì Enrico, va ti bene. Aspetto in studio alla prossima puntata, ciao a tutti, adesso ne parliamo di cinema. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò. Quando. E questo è un brano della colonna sonora di un film che esce questo fine settimana, Latin Lover di Cristina Comencini, che sarà, ve lo anticipo già, una degli ospiti della Rosa Purpurea che andrà in onda dopo il giornale radio delle 18. E quindi per tutte le anticipazioni dei film in sala questo fine settimana, come sempre, il nostro Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto agli ascoltatori. Allora, ho già svelato che si parlerà di Latin Lover nella Rosa Purpurea. Sì, si parlerà anche di Latin Lover, ci sono 10, se non sbaglio, film che arrivano a vario titolo e con varia distribuzione nelle sale, anche questa volta fare una scelta non è stato facile, però Latin Lover è il film, se vogliamo, italiano della settimana, vuoi per... insomma l'importanza della regista Cristina Comencini che, come dicevi, sarà con noi alla Rosa Purpurea, vuoi perché c'è un cast che dire collettivo e come dire e collegiale e corale è veramente dire poco, e poi l'ultima prestazione, l'ultima prova, l'ultima recitazione di Birnalisi, splendida, che splendida, tra l'altro bravissima, splendida, anche fa cose che non ha mai fatto ed è veramente una bellissima cartolina d'addio, se vogliamo. E beh, insomma, il cast c'è tutto, molta Italia e molta Spagna in questa storia di un ricongiungimento, una sorta di grande freddo alla pugliese, potremmo dire, perché 10 anni dopo la scomparsa di quello che è stato un grande attore, un grande vivo del cinema italiano anni 60 e 70, per rievocare la carriera di questo grande vivo, alla cui scomparsa 10 anni dopo due mogli, due vedove e 4 delle 5 figlie conosciute si ritrovano in questa masseria straordinaria in Puglia per ricordarlo, perché gli viene fatto un omaggio dalla gente del posto, ma come sempre queste reunion sono foriere di polveri che da sotto il tappeto dove erano state nascoste riemergono. Devo dirti Franco che io mi sono divertita molto, sono entrata in sala un po' prevenuta, lo confesso, invece mi sono divertita molto, come mi sono divertita molto anche e ne abbiamo parlato già in questo Sabato del Villaggio con Biggio e Mandelli, meglio noti come I Soliti Idioti, un'altra delle uscitone del fine settimana per quanto riguarda i film italiani, perché ce ne sono di peso. Sicuramente per quanto riguarda il Botteghino, la solita commedia Inferno è uno dei film più attesi e vedremo cosa riuscirà anche a realizzare. Un film che, come sempre per quanto riguarda questi due attori, è molto divertente per quanto riguarda gli sketch, ci sono momenti, battute, eccetera, sicuramente riusciti. Poi che sia riuscita la tenuta di tutto il film è sempre un po' il loro rischio, perché loro è un formato molto breve, molto flash. Sì, come al solito, poi una comicità su tanti livelli, si può leggere il livello più elementare, si può leggere anche insomma, la lettura un po' più in prospettiva, ma dicevamo tanti film italiani perché ce n'è anche uno che aspettavamo da qualche settimana, eh. Stiamo parlando forse di Vergine Giurata? Eh sì, ebbene sì. Stiamo parlando di Vergine Giurata, sì, è una prova, questo è un film molto duro, la storia di una bambina cresciuta in un villaggio dell'entroterra albanese dove ancora la cultura è estremamente arcaica e c'è la sua ribellione che per sfuggire a un destino che sembra segnato, insomma, lei porterà avanti. È un classico film da Berlino, infatti è stato a Berlino, un film per chi vuole impegnarsi, diciamo, in questo fine settimana, sicuramente una proposta interessante. Per chi ama invece il cinema americano? Ah, vabbè, guarda, perché Mercenari americano chi è senza colpa, che è una delle sorprese di questo weekend, devo dire, perché è un film che riesce a mischiare molto i generi, con noir e azione che dominano, con una Brooklyn molto plumbea sullo sfondo e con la storia che ormai sta diventando un topos vero e proprio della narrazione cinematografica, cioè quella dell'ex criminale dormiente, no? Che a un certo punto in qualche modo è uscito un po' dai ranghi, si è coperto con una professione banale, magari anche elementare, ma che a un certo punto qualcosa ritira in ballo e fa riesplodere. Ti chiederei un ultimo flash, perché sono molto curiosa, io non l'ho ancora visto, però ho visto tanti trailer, ho visto tutti i manifesti in giro per la città di Una nuova amica, il nuovo film di Françoise Ozon, non l'ho ancora visto, cosa mi dici? Ma guarda che è Ozon, è Ozon, quindi con tutte le sue venature melò, però è un film pieno di sorprese questo, devo dire che rispetto all'Ozon che tante volte ci ha veramente stordito con storie al limite dell'inverosimile, pensate a Angel, tanto per dirne una, in questo caso è uno Ozon che ti tiene lì fino alla fine, direi che è uno dei migliori Ozon visti negli ultimi anni. Straordinario, Franco, appuntamento con te quindi dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea, quindi ci risentiamo anche al prossimo Sabato del Villaggio, sabato prossimo, grazie per essere stato con noi a Franco d'Assisi. A voi, buon proseguimento. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio, anche per questa seconda ora della nostra diretta del sabato pomeriggio, è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologia, libri, insomma il nostro tutorial per un bel weekend. Nella terza ora, ve lo ricordo, dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube, con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Ma cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Beh, musei e social network, sta per ripartire la Museum Week, la settimana mondiale dei musei su Twitter. Poi arte accessibile, ma anche attenzione all'etichetta nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze. Ma prima parliamo di libri, con un ospite che ha deciso di raccontare proprio in un libro la sua storia straordinaria, la storia straordinaria della sua vita di artista. Parliamo di libri che sono delle storie meravigliose, ma a volte anche le vite sono delle storie meravigliose, le vite diventano libri, questo è proprio il caso di questo artista che forse avete già riconosciuto da queste note. Beh, io passo subito la parola ad Alessandra Tedesco, la nostra esperta di libri, perché appunto ci ha portato in studio un ospite speciale. Alessandra, buongiorno. Marta, buongiorno. Io questo diciamo artista l'ho scoperto, sì, come scrittore prima di tutti gli altri, e poi vi racconteremo perché. Lui si chiama Saturnino, vi dice qualcosa? Saturnino? A me dice qualcosa, buongiorno Saturnino. Buongiorno a voi. Buongiorno Saturnino, che ha scritto Testa di Basso, le meravigliose avventure di Saturnino Celani, pubblicato con Salani, e l'ha scritto insieme a Massimo Poggini, che è un giornalista musicale. In sostanza, in questo libro, diviso per piccoli capitoli, quindi si può leggere anche un po' a caso, io per esempio l'ho aperto e sono andata subito sulla pagina del Tè Verde, perché a quanto pare Saturnino, quando riceve i suoi ospiti, offre sempre del Tè Verde. verde, quello che stiamo bevendo anche noi. Giusto, perché l'ora del tè. Ci siamo, ora del tè. E quindi l'abbiamo accolto. Ma quindi così. È un segno, hai aperto quella pagina lì? Io sì, io l'ho aperto al tè verde, sono una grandissima appassionata e ho scoperto che anche tu sei un appassionato, perché in questo tuo libro si scoprono delle cose della tua vita, naturalmente professionale, il tuo percorso, i tuoi incontri professionali, Jovanotti innanzitutto, ma insomma anche altri artisti, Milva, Battiato e così via. Ma ci sono anche, come dire, delle pieghe della tua vita, delle curiosità della dei risvolti tua vita. Dei risvolti. Beh, delle pants, come le pantaloni. Soprattutto senza filtri, hai raccontato tutto? Eh beh sì, infatti ci sono un sacco di nomi e cognomi nel libro, però tutti messi lì come attori in una pièce teatrale, no? Cioè c'è rigore in questo, c'è precisione, c'è soprattutto molta, molta gratitudine in di tutti chi? I nomi ah, citati. Ecco, no, mi fatti tu. Tranne un paio, forse uno. Qualcuno si arrabbierà, qualcuno si è arrabbiato. Un a caso, perché... Giovanni Allevi, io lo dico, basta. Basta, l'abbiamo detto. Invece è vero, tu hai scritto che hai iniziato a suonare il rock perché così riuscivi a cuccare. No, è vero. Cioè, era una cosa che mi serviva proprio come rompighiaccio, apripista, come fase di warm-up. Cioè, una cosa che vedevo che tutti quelli che avevano a che fare con la musica avevano una sorta di, come si dice, timbro per il privé. Come certo, cosa si può... certo. Beh, fa fico, insomma. Stairway to Heaven, esatto, proprio. È un pass, capito? Il bassista poi non è neanche il frontman, quindi... Sì, a volte uno pensa, sbagliando, chissà, che uno fa il bassista perché non è riuscito a fare il chitarrista. Lo sai che si dice ogni tanto così, come no? E invece tu parli del tuo amore per il basso in maniera molto divertente. Ma è stato immediato, perché sono passato dal violino, che è lo strumento che ho iniziato a suonare per far contenti gli amici dei genitori quando arrivavano a casa, no? Sai, mio figlio suona il violino, fai sentire e fai sentire i suoni. Certo. Tipo la poesia del Natale. È no? Bellissimo. E poi invece ho scoperto il basso per puro caso, perché era l'unico strumento libero, perché il bassista del gruppo in cui io ambivo suonare era partito per il servizio militare. Quindi mi hanno detto, guarda, prova a suonare con noi, se ce la fai a tirare giù il repertorio in una settimana, allora sei dei nostri, no? E io ce l'ho fatta tipo in un giorno e mezzo. Noi avevamo incontrato qualche mese fa Claudio Cecchetto, che per una strana alchimia del caso ha presentato pochi mesi fa la sua autobiografia. Strade che si incrociano, perché anche lui entra in questo libro. Quanto sono stati importanti gli incontri nella tua vita, che tu racconti davvero una vita che è un romanzo? Ma è piena di incontri. E soprattutto ogni incontro è stato determinante, cioè non esistono incontri meno importanti di altri, possono esserlo magari anche a distanza di tempo, possono rivelarsi importantissimi, no? E determinanti. Infatti io parlo della teoria dei sei gradi di separazione, che cioè ogni volta che il mio nome è stato raccomandato da un anello debole apparentemente, che e però... che invece è risultato per essere vincente. Certo. Un mondo in cui appaiono artisti figurativi, appare la moda, appare c'è tanta vita di questi ultimi ma anni, appare di tutto. Pensa che una volta per divertimento avevamo messo su una band con Carlo Capasa, Fabio Novembre, l'archistar, il designer, sì, esatto, quindi esatto. Costume National, e siamo andati a fare le prove al Jungle Sound, ok? E c'erano delle ragazze che ci hanno visto uscire dalla sala prove e hanno detto, oh, ma se questi suonano col Saturnino saranno bravi. Ah, certo. Però erano così vestiti bene che hanno pensato di parlare in inglese con loro. Capito? Cioè erano così perfetti nell'outfit che hanno detto che questi saranno stranieri. Sicuramente inglesi, no? Invece erano due pugliesi. Che fantastica, viva la Puglia, vai! Io ho moltissime curiosità anche sul basso, anche perché voglio avere dei consigli da Saturnino. Ci risentiamo tra pochissimo, perché adesso abbiamo i consigli per chi sta viaggiando. Il sabato del villaggio. Sì, lo sapete, lo sanno, la nostra Alessandra Tedesco, il nostro ospite Saturnino, bello come il sole, adesso vi twitto anche qualche foto. Le informazioni per chi viaggia sono sempre preziose il sabato. adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare, che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota. Sono straordinariamente affezionata a questo pezzo perché poco prima è iniziato il Sabato del Villaggio, poco dopo Jovanotti ha annunciato che il suo singolo sarebbe stato Sabato. Io ho pensato subito che avesse pensato a me, l'ho detto anche a lui. Dedicato, ma... Marta sì, Cagnola. Sì, dedicato subliminalmente, gli ho suggerito questa cosa. L'incontro con Jovanotti da 1 a 10.000, quanto è stato importante nella tua vita? È stato anche quello uno degli incontri determinanti. E pensa che quell'incontro è stato organizzato dal proprietario dello studio, che adesso non c'è più, cioè lo studio, il proprietario c'è ancora. Meno male. Lo studio, come un sacco di strutture adibite alla registrazione di musica, è stato smantellato perché evidentemente non rendeva abbastanza, o perché di solito lo studio è sempre un investimento in perdita, no? Perché è molto costoso. Lui mi disse che Lorenzo stava cercando dei ragazzi per creare un gruppo da portare in tour, e non voleva persone già conosciute nel giro dei turnisti. E tu eri un perfetto sconosciuto. Guarda, io, se per te va bene, avrei un batterista e un bassista. Mm-hmm. Il batterista era un ragazzo di Roma che con noi poi ha fatto un disco e un tour, e poi invece io sono rimasto. E la frase bella che ho anche citato nel libro fu quella che Lorenzo mi disse dall'altra parte del vetro dello studio, no? Io avevo registrato l'assolo di Libera l'anima, che era un pezzo di Lorenzo, di Una tribù che balla, del 1991, e lui mi disse: ma hai da fare, sei libero per i prossimi 6 mesi? Ma adesso così, che è una frase detta così, a cui io senza assoluta esitazione ho risposto immediatamente: sì, certo, sono libero, e sono passati 25 anni. Beh, da 6 mesi a 25 anni, ma con Jovanotti, un matrimonio. Ma velocemente, ma proprio, cioè sono passati che... cioè quasi non me ne sono neanche accorto. Allora, si ricorda il grande chitarrista di Vasco, si ricorda il grande chitarrista di Ligabue, però il grande bassista alla fine in Italia, cioè quando si dice bassista si dice Saturnino, perché secondo te? Beh, ci sono anche altri esempi, tipo Red Kanzian o Patrick Zivas della PFM, primo bassista che arrivò dalla Francia, che ti ha fatto rivoluzionando penare completamente. Beh sì, tantissimo. Che ho letto che ti ha fatto soffrire. Sì, libro. Sì, io sono stato Karate Kid con lui. Ti faceva dare la cera, togliere la cera. Ma sai, il bassista è una figura un po'... è lì, è sempre... non ha mai problemi egoici col resto del gruppo. Forse il batterista soffre un po' il fatto che si trova dietro uno dietro strumento si vede fisso, poco. No? Però poi non è mai una regola questa, no? Il bassista invece è sempre lì, tranquillo, forse per una questione di... io dico sempre che è una questione di frequenze, cioè le frequenze basse vengono prima percepite dallo stomaco e poi le percepisci con l'orecchio, no? Quindi... infatti tu a un certo punto... è seduto, il bassista di solito è bello... piantato. È bello piantato. Tu a un certo punto scrivi una frase bella forte, no? Dici: a mio modo di vedere, per una canzone la linea di basso ha la stessa importanza di un'arteria come l'aorta per il perfetto funzionamento del corpo umano. Alla faccia. Beh, questo lo devo ringraziare il mio chirurgo vascolare che mi ha operato, che è il dottor Diego Corti. Che ti ha suggerito la metafora. No, ma ho spiegato un po' il funzionamento del sistema vascolare. E quindi da lì hai capito che c'era un... e poi in realtà avevo anche visto il documentario di Bob Marley, dove il bassista dei Wailers diceva che la batteria è lo strumento più importante per la musica, e quindi sta come il cuore sta al corpo umano, e il basso è la colonna vertebrale. Quindi io volevo trovare un'altra metafora. Fantastico. Vabbè, adesso possiamo svelare, perché io ho capito prima degli altri che Saturnino sarebbe diventato uno scrittore. Raccontalo. Questo è il tuo primo libro. Io ho incontrato Saturnino l'anno scorso ad una cena molto carina, ad un festival letterario che si svolge ogni anno a Cortona fra fine luglio e primi di agosto. Cortona, luogo. Infatti c'era anche Jovanotti, ma siccome la Tedesco è parecchio stordita, pensando di essere appunto ad una cena letteraria, ho iniziato a chiacchierare con lui come fosse uno scrittore, pensando, cercando di ricordarmi quale fosse il romanzo che aveva scritto. Beh, insomma, sì, sono stata lì 3 ore, abbiamo chiacchierato, lui secondo me l'ha capito e ha continuato e a prendermi per... non è stata una gaffe ma una premonizione. Una premonizione. Poi a un certo punto una collega mi ha detto: ma tu hai capito chi... perché ha capito che io chiaramente andavo su un'altra strada. Ma hai capito chi è questo? Dico: no, è uno scrittore, ma non mi ricordo il suo nome. Lei mi fa: hai capito tutto della vita, lui è Saturnino. E detto: chi? E io ho risposto: Saturnino, chi? Ti ho dato del Salinger, mi ricordo, perché ho detto: hai la faccia di uno scrittore intellettuale che tende a stare molto da solo. Avevo capito proprio tutto della Salinger tua vita. Salinger piangente. Un nuovo giovane Holden. Io da ragazza, da bambina, ero innamorata di due bassisti. Uno era John Taylor. È citato nel libro. Sì, John Taylor. Peraltro, insomma, talmente bello che non ci si accorgeva che era anche un bravo musicista. Vabbè, ma anche Saturnino è bello, dai. Mamma mia. Il secondo, ho detto: speriamo che me lo citi Saturnino, e me l'ha citato subito, Mark King. Cioè, tu a un concerto dei Level 42 sei andato fin da ragazzino. Ma pensa che io ero ricoverato in ospedale e mio padre ha firmato per farmi uscire, per andarmi... Per poter andare al concerto del Level 42. Se io ti chiedessi un consiglio, qualche bassista invece da scoprire, da ascoltare, qualche bassista... Ma sai, alla fine... questo strumento, grazie al passaggio dalla ricerca cartacea alla ricerca in rete, ha un sacco di adepti, no? Sono cresciuti i bassisti, sono cresciuti i giovani che si avvicinano a questo strumento, ed è cresciuta tantissimo la capacità tecnica sullo strumento, no? Ci sono musicisti che sono in grado di fare col basso cose assurde, tipo in Italia c'è Federico Malaman, che fa delle, cioè si può vedere su YouTube, posta dei video fatti in casa, dove lui si riprende con un iPhone e suona e fa delle cose veramente strabilianti. Mi è rimasto impresso, a un certo punto tu dici, a proposito dei momenti belli, quando tu e Lorenzo Jovanotti vi guardate durante... C'è proprio l'inizio dell'Ombelico del Mondo, che l'abbiamo suonato in dovunque. Pensa che abbiamo fatto anche l'Ombelico del Mondo nella piazza principale di Città del Messico, con Beppe Carletti alla fisarmonica, io al basso e lui alla voce. Eravamo in tre e lui ha detto: partiamo con l'Ombelico del Mondo. E Beppe Carletti mi ha guardato come dire: non ci abbiamo niente. Ha detto: partiamo uguale. E abbiamo fatto questa versione. Che tu sei anche autore, tra l'altro. Sì, coautore. Coautore, certo, ricordiamo. Non sei solo bassista, Che rendono felici. Perché quando sentiamo di S. Celani, tipo, perché alla SIAE non si è potuto registrare come Saturnino. Non possiamo svelare troppo, perché tutto. Altrimenti poi sveliamo anche chi è stato a uccidere, è stato il maggiordomo. Comunque, a parte gli scherzi, no, ma l'avete visto gli hashtag che ha messo Lorenzo sul libro? Ma certo, l'assassino è il bassista. Ma certo, l'assassino è il bassista. A proposito di hashtag chiedi a Satu, è fighissimo, cioè tu usi Twitter, lo usi tanto, usi Instagram. L'ho fatto prima di Renzi, chiedi a Satu. Esatto, nessuno avesse detto: oh, grazie per l'ispirazione. Per l'ispirazione, niente. Per i prossimi 10 minuti lui dice: chiedi a Satu, e gli si possono fare domande. E lo sai da chi l'ho preso io? Dal bassista dei Motley Crue. Ah, vedi, è una roba tra bassisti. I bassisti sono oltre. Ma in realtà oltre. Vado pescando in giro e che cosa e ti riporto. Chiedono soprattutto? A parte le domande che poi si trovano nel libro. No, beh, bene o male le domande sono sempre le stesse, no? Però poi nessuno si spinge, c'è sempre un po' di timore reverenziale nel chiedere le cose quando sei pubblico, no? Mm-hmm. Il massimo è stato Fegiz che una volta mi ha scritto su Twitter pubblico: Saturnino, ti sto cercando. Questo e quando ti ha scritto il numero? Quando ti ha scritto il numero, veramente standing ovation. Abbiamo Max riso Spezzali per due settimane. Che detto, ti sto cercando il mio bancomatte. Bellissimo, è bellissimo. Alessandra, tu hai ancora qualcosa da chiedere? No, io a un certo punto, beh, chiaramente il mio occhio sul libro era puntato anche sui gusti letterari di Saturnino, perché c'è un punto in cui tu dici che c'è stata una persona che ti ha fatto leggere un libro da cui ti è venuta poi una moderata, insomma, una certa passione per la lettura. Mi dici un libro che ti è piaciuto, uno qualsiasi, non mi devi dire il preferito, non esiste il libro preferito. No, preferito no, ma pensa che mi è successo due volte in vita mia. Per esempio, una volta era venuta una modella a casa. Proprio, sai, rimorchio post proprio. Club. E vede tutta la collezione di dischi che c'avevo in questa casa dove abitavo con il mio amico Umberto Angelini, citato lì. Cioè, e io ho detto: metti su un disco se vuoi, no? Sai, quando inizia tu accendi le candele, scaldi l'acqua per il tè, no? L'incenso, e ti va a pescare il disco di Leonard Cohen, che era l'unico che non era mio, era di Umberto, era il coinquilino, no? Era un segno. E così per i libri, uno dei miei libri preferiti l'ha lasciato in casa mia una ex fidanzata. Bellissimo, e qual è? L'elogio della fuga, di Laborit, credo si pronunci così. Non l'ho letto, mi manca. L'ho trovato, ho detto, l'elogio della fuga. In realtà l'ho letto, avevo subito cambiato il titolo perché... Ma nel libro adesso Saturnino promette anche fedeltà alla sua compagna, parla anche di cose sue private. L'ultima frase del libro è dedicata a lei, quindi diciamo è un uomo adesso. Straordinario, tutto questo è bellissimo. Io mi sono davvero divertita tanto a leggere Testa di Basso, il libro di Saturnino, con il bravissimo Massimo Poggini, Salani editore. Grazie Saturnino per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, grazie a voi. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria. Quanto mi piace questa, proprio una delle canzoni che mi piacciono di più del nuovo di Lorenzo 2015 CC. Bello, bello, è buono questo tè con Saturnino. Adesso sto cercando di twittarvi le foto, adesso le posto, le instagrammo. Noi ci risentiamo tra poco perché dobbiamo parlare di consumi, dobbiamo parlare di cultura, dobbiamo parlare di musei, di arte. Abbiamo un sacco di argomenti ancora molto molto interessanti nella seconda parte della seconda ora del nostro Sabato del Villaggio. Ci ritroviamo ancora tra pochissimo. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci con il nostro sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, e questo, come sempre, è il nostro tutorial per un bel weekend, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he passed the street, send him on a pleasant cruise. Beh, un tempo qualcuno si poteva permettere di avere anche degli Andy Warhol, fortunati quelli che avevano avuto l'idea giusta di aggiudicarsi un quadro, un'opera di Andy Warhol, e adesso, come David Bowie, ce li avranno un po' disseminati. Beati loro. Parliamo di arte, lo facciamo nel nostro spazio dedicato ai consumi e alle nuove tendenze. Anche l'arte può essere oggetto di consumo e di nuove tendenze. Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto Agli ascoltatori sì, perché parliamo di arte accessibile oggi. Ah, quindi non le aste appunto con gli Andy Warhol, che no. Niente cifre a 6-0, parliamo appunto di un evento di successo internazionale che in qualche modo ha rivoluzionato il modo di concepire l'arte, rendendola democratica, aperta, accessibile appunto, e sia in termini di contenuto che di prezzo, perché poi la valenza è doppia. È una fiera nata alla fine degli anni 90 in Inghilterra, conta edizioni in molte città nel mondo, è giunta al suo quinto anno anche in Italia. È l'Affordable Art Fair, si è aperta giovedì scorso, si chiude domani a Milano al Super Studio Più. Ci facciamo raccontare tutto dalla direttrice Nina Stricker. Buon pomeriggio Nina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, il vostro motto è: siete pronti ad acquistare la vostra prima opera d'arte? È così? Sì. E anche a sviluppare il proprio personale taste of art, perché c'è una scelta veramente vastissima di opere di ogni stile, genere, tecnica, di 95 gallerie internazionali presenti tutti sotto lo stesso tetto e la stessa soglia di prezzo, appunto da 100 a 6.000 euro, con l'idea di offrire davvero qualcosa per tutti i gusti e tutte le tasche. Ecco, quali sono in questo settore le ultime tendenze? Dove si sperimenta di più in questi oggetti d'arte accessibile? Diciamo che sicuramente un settore in pieno sviluppo che sta acquistando negli ultimi anni una grande popolarità presso il pubblico è sicuramente la fotografia, linguaggio particolarmente accessibile anche per first buyer o appunto persone che si avvicinano per la prima volta al mercato dell'arte contemporanea. Infatti da noi ogni quinto acquirente è al suo primo acquisto, quindi cerchiamo appunto di avere delle proposte adatte anche ai collezionisti, alle prime armi. Quindi quest'anno abbiamo creato un vero e proprio focus fotografia, una piccola sezione dedicata con solo appunto lavori fotografici, mentre un settore sempre per sua natura appunto in crescita emergente, quello dei giovani artisti, che è un po' un altro dei nostri focus di questa edizione. Un decimo sì della superficie espositiva è dedicata appunto agli artisti under 40, e chissà, magari qualcuno scopre qualche Warhol di domani, ecco, qualche certo, giovane promessa. Certo. Nina, tu cosa consiglieresti a qualcuno che si affaccia per la prima volta a un evento del genere? Cosa deve cercare? Da cosa si deve lasciare ispirare? Si deve lasciare ispirare proprio dal proprio gusto personale, deve proprio avvicinarsi all'opera che colpisce al primo impatto. Poi, al di là del primo impatto, di non aver paura di chiedere. Il nostro è un format appunto molto aperto, molto friendly, dove anche i galleristi non stanno seduti in un angolo ma sono lì in piedi e pronti, ecco, a rispondere a qualsiasi domanda, anche fra virgolette da non intenditori, e cercare di capirne di più anche, diciamo, della tecnica di realizzazione dell'artista. Infatti facciamo anche diversi talk e attività collaterali per conoscere a tu per tu gli autori di questi lavori, e dopodiché farsi un giro, magari dormirci anche una notte sopra, che tanto siamo qui fino a domenica per decidere, però di seguire appunto non tanto una logica di investimento quanto proprio di gusto, passione, comprare quello di cui ci si innamora. Anche la street art si è ricavata uno spazio nelle gallerie ormai, è così? Sì, ci sono diversi espositori presenti in questa edizione che rappresentano degli street artist affermati o anche emergenti. Per noi è un tema interessante, un genere anche poco rappresentato nelle fiere tradizionali, e giovedì scorso tra l'altro abbiamo dedicato una tavola rotonda con operatori, organizzatori di diversi festival dedicati al genere e artisti come il writer storico milanese Flycat, ma anche dei giovanissimi selezionati tramite il nostro concorso online AEF Cerca Young Talents, dove in collaborazione con Bart Steiner abbiamo quest'anno selezionato anche un giovane street artist che è Carlo Satosh. E sì, io vedo diverse prospettive di sviluppo proprio per questa tematica, e penso che potremmo dedicare una sezione speciale proprio alla street art. Giovedì, sempre nel nostro evento serale, tra l'altro il pubblico ha potuto assistere a una serie di live performance che si svolgono dentro, che si sono svolti dentro e fuori dal nostro padiglione. Io vorrei solo ricordare il sito, perché il sito affordableartfair.com ha tutte le indicazioni anche per come arrivare, come entrare, quali sono i biglietti, esatto. Tutte le indicazioni pratiche nel sito affordableartfair.com. Grazie Nina Stricker, buon pomeriggio, a presto. Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio. Ciao. Maria Luisa, adesso è il nostro momento dei consigli per come spendere meglio. Questa settimana chissà di cosa parliamo. Allora, parliamo della regina delle strategie anticrisi. Lo abbiamo detto più volte per me, ma per molte così, è l'informazione. Perché essere consumatori informati, consapevoli, significa innanzitutto saper scegliere. E quindi oggi parliamo delle fonti che ci aiutano tutti noi come consumatori a trovare le informazioni sui prodotti che compriamo, e lo facciamo come sempre in compagnia della direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio Cristina. Eccoci qui. Allora, la fare la spesa sembra un lavoro quasi un lavoro per tutti, chiunque di noi ha fatto la spesa, però oggi come oggi sappiamo che anche a colpi di insicurezze alimentari si parla sempre di più di sicurezza alimentare. Allora, quando andiamo a fare la spesa ci chiediamo che cosa sto comprando. L'etichetta in linea di massima aiuta, anche voi ne avete parlato in passato con Io Leggo l'Etichetta, che comunque è un sito che consiglio sempre di andare a vedere, soprattutto adesso che c'è stata tolta la possibilità, o perlomeno è stata tolta l'opportunità di mettere o meno lo stabilimento di produzione, nel senso che oggi chi lo vuole lo mette, altrimenti no. Però ottime notizie da quel fronte: un sacco di catene italiane hanno in realtà ribadito il fatto che loro, malgrado si possa togliere questa indicazione, loro continueranno a mettere. Ci sono tutti, U2, Conad, Coop, Esselunga, ma anche Lidl, Eurospin, quindi che siano piccole catene, grandi catene, discount o meno, molti di loro hanno detto: bene, noi sui nostri prodotti e con il nostro marchio continueremo a mettere lo stabilimento di produzione. Attenzione, non lo ribadisco, ma ormai lo sappiamo quasi tutti, lo stabilimento di produzione è diverso dall'indirizzo dell'azienda, perché l'indirizzo dell'azienda può essere ovunque nel mondo, però chiaramente dove si fanno i prodotti è un'altra cosa. Quindi molto importante guardare dove viene fatto, soprattutto per noi italiani che magari ci teniamo anche a mangiare qualcosa che viene fatto e prodotto in Italia, da lavoratori italiani. Tra l'altro, una buona notizia sul fronte dell'Unione Europea: dopo l'obbligo di indicare elementi per i celiaci senza glutine o allergeni, è in arrivo anche l'obbligo di indicare gli ingredienti dei piatti pronti e l'origine dei piatti pronti e delle paste ripiene, perché come ben sappiamo il tortellino sarà fatto in un certo modo, ci sarà l'uovo, ci sarà la pasta, però nel ripieno vogliamo sapere che carne c'è e possibilmente anche da dove arriva. È uno scandalo alimentare dell'anno scorso, ci ha insegnato insomma a stare, esatto, molto attenti su questo. Esattamente. E tra l'altro, se vogliamo istruirci di più, ci sono anche dei siti che si dedicano, devo dire con abnegazione e in maniera molto molto approfondita, come vi segnalo il Fatto Alimentare, che è sempre sull'argomento, Leggo l'Etichetta, che ho già citato, e anche Altro Consumo, che ci affianca sempre nelle nostre scelte consapevoli. Infine, stiamo aspettando tutti di imparare qualcosa di più con l'apertura di FICO Italy World, che sarà questo parco di divertimenti dove insieme al divertimento impareremo anche qualcosa di più sui prodotti, perché dobbiamo imparare anche a scegliere e a informarci sempre di più. E in previsione di Expo ci prepariamo tutti quanti, Marta, così? Sì, perché parleremo tantissimo di cibo, bisogna anche sapere scegliere con attenzione. attenzione con oculatezza e non incorrere nei pericoli. Preziosissima come sempre, a sabato prossimo, grazie Cristina. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie a te anche Maria Luisa, l'appuntamento con Essere Avere? Domani alle 15 come sempre, un saluto a tutti Marta. E sabato prossimo al Sabato del Villaggio, grazie Maria Luisa. Deve lasciarmi portare la tavola e Akmerra a Londra. Scusa, sto elaborando, Analisi dati input. Ti ho appena detto che mi hanno licenziato e la prima cosa che fai è chiedermi di portare due inestimabili manufatti in vacanza con te. Sì, no. Per favore, mai. Le chiedo, la prego di assecondare la mia richiesta, la prego. No, non posso farlo, caro. Il sole tramonta, la tavola comincia a brillare e tutto prende vita. Certo. È vero. La tavola comincia a brillare. Ora so che sei pazzo. Che era Una notte al museo, che aveva questa canzone nella colonna sonora, perché l'ultimo capitolo della Una notte al museo si era trasferito a Londra. Ma anche noi adesso andiamo al museo, perché abbiamo parlato di affordable art, di arte accessibile con Maria Luisa Pezzali. Adesso parliamo di musei, di un'iniziativa che a me piace molto, incuriosisce molto. Lo sapete che sono un po' fissata con Twitter, anzi poi tra poco arriverà Daniele Bellasio con il nostro Radio Tube e quindi parleremo tantissimo come sempre di attualità vista dalla rete, attraverso la rete, attraverso i social network. Ma tra le tante cose che si possono fare con i social network si può vivere l'arte. Allora, anche quest'anno, dopo il successo riscosso nella prima edizione del 2014, riparte la Settimana dei Musei su Twitter, un evento mondiale. Ci sono molti musei italiani che hanno già aderito all'iniziativa, oltre 120, ma secondo me sono ancora aumentati nelle ultime ore, dal 23 al 29 marzo. Si chiama Museum Week, anzi hashtag Museum Week avviene su Twitter. Cerchiamo di capire cosa succederà con il direttore media di Twitter Italia, Antonella Di Lazzaro. Buonasera Antonella. Buonasera Marta e buonasera agli ascoltatori. Che bello avere Antonella Di Lazzaro, anche perché il suo è l'account di Twitter più facile di tutti, chiocciola Antonella, basta, così non è neanche difficile, dovete ricordare, basta seguire Antonella e la trovate subito. Bella questa iniziativa, mi piace un sacco, non solo perché, come sai, io sono abbastanza Twitter dipendente, sì. Ma mi piace vedere che i social network si danno una mano all'arte, possiamo dire così. Che cosa succederà con questo hashtag Museum Week, Antonella? Allora, piace molto anche a noi e ne siamo davvero molto entusiasti. Come dicevi, l'iniziativa è al suo secondo anno. Quest'anno abbiamo triplicato le adesioni sia in Italia che nel mondo. Sono 50 paesi che partecipano a partire da lunedì 23, 1800 musei partecipanti, e devo dire, stavo guardando le statistiche proprio adesso, siamo arrivati a 200 musei solamente in Italia. Ah beh, quindi io avevo dei dati che non erano aggiornati, ma risalivano a poche ore fa, vuol dire che i numeri stanno aumentando vertiginosamente. I numeri stanno aumentando, continuano ad aumentare, e l'adesione dei musei è stata davvero molto entusiasta e molto eterogenea, perché ci sono tantissimi musei diversi che partecipano. Uno dei miei preferiti è il Museo della Grappa. Oltre ai musei più istituzionali ci sono anche i musei del fumetto, musei del tessuto, musei per i bambini, quindi c'è davvero molto entusiasmo e molta eterogeneità. In pratica l'iniziativa darà la possibilità per 7 giorni, con un tema diverso ogni giorno, quindi utilizzando, oltre all'hashtag Museum Week, 7 hashtag diversi, di mettere in contatto i musei e gli appassionati di arte e di cultura. I musei avranno dei temi nelle varie giornate, alcuni sono molto relativi al museo, quindi ad esempio lunedì si parte con i segreti del museo, in cui ogni istituto avrà la possibilità di twittare non solo in 140 caratteri, ma anche attraverso foto e video delle cose che sono segrete, appunto, che appartengono a quella collezione, alle collezioni, agli archivi e che non si vedono di solito. Mercoledì 25 parleranno dell'architettura e quindi anche di luoghi che normalmente non sono visitabili, ma chiederanno anche agli utenti, al pubblico, di dare il proprio contributo, twittando foto o ricordi particolari relativi al proprio museo, chiedendo loro di farsi un selfie. Questo accadrà domenica 29 mentre visitano. Bello, quello che mi piace di più, hashtag PoseMW, cioè PoseMW, cioè mi piace anche la vostra spiegazione. Invitate i vostri visitatori di Tei Musei a considerare il museo come un set e a mettersi al centro della scena. Bello, bello, vivere il museo, mi piace. Sì, infatti c'è questo elemento che è misto di virtuale e di reale, perché in effetti Twitter è una piattaforma di comunicazione virtuale, anche se poi è pubblica, senza barriere, in tempo reale, ma di fatto noi invitiamo, i musei invitano le persone ovviamente ad andare, quindi a vivere un'esperienza fisica. E in questo senso abbiamo una novità quest'anno, e cioè abbiamo creato un'opera d'arte digitale che i musei esporranno e che si comporrà e cambierà di secondo in secondo in relazione ai tweet che sono inviati non solo con hashtag Museum Week, ma anche i tweet relativi al museo che la espone. Quindi ogni museo avrà la possibilità di esporre un'opera d'arte digitale che gli è propria, quindi è unica al mondo. E anche in questo abbiamo cercato di dare un risvolto fisico all'attività che ci sarà su Twitter. Mi piace molto. Intanto io segnalo anche il sito, che è museumweek2015.org, anche perché ci sono le istruzioni proprio per i musei che volessero aderire. Io devo segnalare con molto piacere che questa settimana nascerà un museo nuovo. Io sono già lì pronta per l'inaugurazione, perché nasce il MUDEC, che è il Museo delle Culture di Milano. Il 27 marzo apre, e quando aprono gli spazi nuovi sono molto molto felice. Fanno appena in tempo ad aderire alla Museum Week. Aprono il 27 marzo, la Museum Week finisce il 29. Poi Antonella, ti devo fare gli auguri di Twitter compleanno, perché oggi è il compleanno di Twitter, oggi è il nono compleanno di Twitter, esattamente, 9 però, anni. Ma mangiate la torta lì a Twitter, avete fatto una torta con l'uccellino azzurro? Sì, facciamo di solito le cupcake, ognuna con un uccellino diverso, che uccellino con una nuance di azzurro diverso. Che meraviglia, Antonella. Allora, io sono molto contenta di aver parlato di questa iniziativa museumweek2015.org dal 23 al 29 marzo. Ogni giorno un hashtag diverso, tutti i musei, hai detto 200 musei italiani hanno già aderito. Quindi... Siamo arrivati a 200, notizia dell'ultima ora, quindi insomma continuano ad iscriversi. Fantastico. Nei giorni feriali i temi incoraggeranno la comunicazione online, perché probabilmente insomma si sta più online che fuori. Nel weekend si darà maggiore risalto alla partecipazione attiva dei visitatori in loco, quindi tutti quelli che dicono che chi sta sempre attaccato ai social network non esce e non vive sbagliano, ecco, perché i social network adesso ci spingono anche ad andare a vedere i musei, e quindi due mie passioni. Che assolutamente sì. Ultima cosa, sempre per uscire dal social network, Sky Art HD dedicherà una programmazione speciale per tutta la settimana a questa iniziativa. Quindi chi non andasse al museo e non frequentasse social network, speriamo pochissimi, potrà anche vedere qualcosa sulla nostra iniziativa ogni sera su Sky Art HD. Che meraviglia, abbiamo unito tre mie passioni, allora anche Sky Art HD. Grazie mille Antonella, grazie per essere stata con noi, direttore media di Twitter Italia. Sono molto contenta di averla ritrovata, perché era da un po' che non ci incrociavamo nelle varie avventure professionali. Molto contenta di aver incontrato di nuovo Antonella Di Lazzaro. A presto Antonella. E a presto, un saluto. Grazie mille. Noi ci ritroviamo tra poco, perché dobbiamo cambiarci d'abito, metterci il vestito da cocktail. A proposito di museo della grappa, no, il cocktail con la grappa, no, soprattutto l'aperitivo con la grappa, no, anche perché è quasi l'ora del tè ancora, dopo il tè che abbiamo bevuto con Saturnino. Dobbiamo cambiarci d'abito, perché tra poco, è il momento del nostro RadioTube con Daniele Bellasio, l'attualità della rete è vista attraverso la rete. Adesso però è il momento del giornale radio delle 17. Ci ritroviamo ancora dopo con il sabato del villaggio.